noi abbiamo fatto sentire a bambini piccolissimi, poche ore di vita, la musica e i racconti, le fiabe, come di solito si raccontano ai bambini, cioè con una voce molto enfatizzata, con le parole ben distinte, con la voce femminile anche soprattutto. E questo abbiamo visto che coinvolge dei sistemi nel cervello che sono molto complessi e già presenti alla nascita e sono quelli fondamentali poi per l'apprendimento del linguaggio, della lingua madre, ma anche di altre lingue, e altrettanto la musica. La differenza spaventosa che abbiamo notato è quando noi alteriamo la voce, quando noi alteriamo la musica, questi sistemi si riducono, cioè non, il cervello del bambino non risponde così come alla voce naturale, alla voce con una prosodia importante o la musica vera, caratteristica delle nostre regioni, sono la musica occidentale, ma sicuramente anche altre musiche, cantilene, filastrocche.